E appunto la lezione di stasera vuole parlare un po' del concetto che era presentato da Pesach, non tanto di Pesach stesso, ma che cosa rappresenta Pesach e cosa soprattutto vuol dire per ognuno di noi oggi giorno. Allora, innanzitutto vi racconto brevissimamente una storia. Voi sapete che i primi anni degli anni 90 c'è stato un grandissimo esodo dai paesi dell'ex Unione Sovietica verso Israele, cioè moltissimi ebrei che sono appunto venuti, sono giunti, hanno fatto l'aliyah in Israele da tutta l'ex Unione Sovietica. È una cosa incredibile che molti per tanti decenni non avevano mai creduto che una cosa così potesse accadere davvero nella nostra vita, e invece è accaduto. Tra le molte cose, tra i molti aspetti di questa Aliyah, c'era anche una grande sfida per ciò che riguarda la Rabbanut, il rabbinato in Israele, per verificare effettivamente l'ebraicità di molte delle persone che sono giunte in Eretz Israel, visto che dopo un'interruzione di ebraismo vissuto in maniera ufficiale nell'Unione Sovietica, un'interruzione che è durata circa 70 anni, possiamo immaginare che in moltissimi casi le prove dell'ebraicità di una persona erano quasi inesistenti, e quindi molti rabbanim hanno lavorato molto duro per verificare l'identità ebraica di tante persone, perché questo ovviamente si lega a moltissimi fatti della vita ebraica, come il matrimonio, eccetera, dove bisogna verificare queste cose. In un caso specifico, al rabbinato di Tel Aviv arriva un uomo di una quarantina d'anni con il motivo di farsi approvare la propria ebraicità dal Beit Din. Il capo del rabbinato di Tel Aviv in quell'epoca era Rav Lau, quello che è il papà dell'attuale caporabbino di Israele, che poi lui stesso era diventato, dopo che era caporabbino di Tel Aviv, era diventato caporabbino di Israele, Rav Yitzhak Meir Lau. E lui accoglie questa persona e iniziano a fare delle indagini. Questa persona portò con sé due testimoni. Per ognuno aveva una testimonianza diversa riguardo l'ebraicità di questa persona. La prima persona era un uomo che diceva che 42 anni fa, questa persona aveva 42 anni, 42 anni fa io ho partecipato, ho assistito alla Milà di questo uomo che oggi vuole far verificare la sua ebraicità. Quindi questo per dire, nell'ex Unione Sovietica era molto raro che una persona potesse fare la Milà in generale, e quindi molte persone ancora oggi si fanno fare la Milà in età adulta, perché in quell'epoca non potevano farlo. In alcuni casi però era possibile, perché c'erano alcuni Moalim, alcuni dei quali io ho conosciuto personalmente, che avevano altri lavori, però in maniera clandestina continuavano a portare avanti la Milà anche sotto grande pericolo se fossero stati presi, sia per loro che per le famiglie, eccetera. Comunque, questa prima persona dice: io ho assistito alla Milà, e questa era una testimonianza importante. Un'altra persona, che era una persona ancora più anziana della prima, era un anziano Hasid, un Hasid Chabad, Lubavitch, e disse: io personalmente non conosco questa persona, il soggetto di questa indagine, però, di questa verifica, diciamo così, però conosco la madre e vi racconto come la conosco. E racconta al Beit Din, appunto a Rav Lau e il suo Beit Din, dice: la madre di questa persona non era una persona religiosa, era un medico importante, era il primario di un certo dipartimento di un ospedale a Mosca, però so bene che una delle mitzvot lei faceva con moltissima attenzione, e raccontò che questa signora, la madre di questo signore, praticamente ogni giorno fumava tanto, e fumava ogni giorno circa due pacchetti di sigarette. Ogni sera, prima di andare a dormire, prendeva una sigaretta, e sotto il letto aveva tipo un salvadanaio, diciamo, di sigarette, e si metteva sotto il letto una sigaretta ogni notte prima di andare a dormire. Dopo il periodo di Purim, ogni anno, lei apriva questa scatoletta, tirava fuori 365 sigarette che si erano accumulate nel corso dell'anno passato, le portava a me, racconta questo Hasid. Veniva da me a casa di notte, che nessuno vedesse, e me le portava. Io le vendevo sul mercato nero e con il denaro ottenuto acquistavo della farina, qualche chilo di farina. Con questa farina facevo, preparavo delle matzot kasher le Pesach per questa signora. Rav Lau ha sentito questa cosa e ha toccato molto il cuore a sentire una cosa del genere, una persona che magari non riusciva a fare nient'altro, ma tutto l'anno pensava come fare a Pesach, e ha detto: io non ho parole, dice, lo racconta poi Rav Lau, lo raccontava, dice: io una volta l'anno faccio il seder, tutti i giorni dell'anno facevi il seder, tutte le sere dell'anno facevi il seder. E quindi questo un po' per aprire il discorso sull'importanza del seder. Ma è una cosa che non è così chiara, cos'è davvero l'aspetto più importante del seder o in generale perché si fa il seder. Non parliamo adesso delle cose specifiche, si mangia la mazzà, si beve il vino, ma qual è l'idea che si vuole trasmettere? In generale sappiamo che nell'ebraismo ci sono due cose di base, due valori o due idee che la Torah ci invita a sempre ricordare tra le varie cose. Forse le più importanti sono forse, possiamo considerarle le basi dell'ebraismo, l'idea che HaKadosh Baruch Hu è il creatore, quindi la creazione del mondo, dell'universo, e la seconda cosa è la Yetziat Mitzrayim, l'esodo dall'Egitto. Queste sono le due cose basi. C'è in realtà un Midrash che vi cito, un Shemot Rabbah, sul libro di Shemot dice che HaKadosh Baruch Hu dice al popolo ebraico, dice a Mosè: ricorda al popolo ebraico che Shem, Shebarati et Haolam, nella stessa maniera che io ho creato il mondo e ho detto loro di ricordare lo Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, ricorda il giorno dello Shabbat che è in funzione di ricordare la creazione, come vedremo tra un attimo, nella stessa maniera ricordatevi anche i miracoli, i prodigi, le meraviglie che io feci per voi nel momento in cui accadde l'esodo dall'Egitto. E ricordatevi che siete usciti da lì. Come detto, simile a quanto è detto riguardo la creazione, lo Shabbat, è detto Zachor et Hayom Asher Yetzatem Mimitzrayim. Ricorda il giorno in cui siete usciti dall'Egitto. Cioè abbiamo un obbligo di ricordare queste due basi, non solamente ricordare nel nostro pensiero o anche con la parola, non ci limitiamo a questo, ma il ricordo è qualcosa che si esprime in vari nostri comportamenti. Si esprime in vari nostri comportamenti. Vediamo per prima il concetto del ricordare la creazione, dove si esprime in un nostro comportamento il fatto di voler sempre ricordare quest'idea che HaKadosh Baruch Hu ha creato il cielo e la terra. Ramban, grande maestro Nachmanide, scrive che il fatto stesso che non abbiamo in ebraico dei nomi per i giorni della settimana. Come chiamiamo i giorni della settimana in ebraico? Yom Rishon, Yom Shin. Non c'è un nome come in altre lingue, c'è una numerazione che parte dallo Shabbat. Primo giorno dopo lo Shabbat, Yom Rishon. Rishon di cosa? Rishon dopo Shabbat. Sheni dopo Shabbat. Tutto per ricordarci che stiamo partendo dallo Shabbat, che stiamo partendo dalla creazione. Questo lo dice appunto il Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, un grande maestro spagnolo medievale. Questo è valido per lo Shabbat, questo è valido anche per l'uscita dall'Egitto. L'uscita dall'Egitto è una cosa che ricordiamo sempre. Lo ricordiamo, a parte che è una mitzvah della Torah, ricordare ogni giorno l'uscita dall'Egitto. Dove lo ricordiamo ogni giorno? Nella Shirat Hayam, sì, ma anche nello Shema. E nella tefilà, sia la mattina che la sera arvit, nelle berachot, nelle benedizioni che seguono lo Shema, come? Devono accorgiate, Vemunah, bravissimo, e esatto. anche Esrat Avoteinu, cioè la brachà che segue lo Shema sia la sera che la mattina, è dedicata al ricordo e anche del racconto di alcuni aspetti della Yetziat Mitzrayim, dell'uscita dall'Egitto. Vi cito un altro maestro, che è il Sefer HaChinuch, un'opera molto importante che fa un elenco di tutte le mitzvot con relative motivazioni e approfondimenti per ognuna delle mitzvot della Torah. Lui scrive la seguente cosa, dice: non è una meraviglia, non è strano il fatto che molte delle mitzvot della Torah hanno come base l'idea di ricordare l'esodo dall'Egitto. Quando la Torah parla dei tefilin, dice perché così ti ricordi che sei uscito dall'Egitto. Quando la Torah parla di altre mitzvot, come per esempio una cosa che non sembra che c'entra qualcosa, però la Torah lo lega, il pidyon ha-bechor, cioè lo scompro, come si dice a Roma, il riscatto del primogenito, cosa dice la Torah? Perché io ho riscattato i vostri primogeniti quando sono stati colpiti i primogeniti egiziani. Allora voi dovete dedicare a me i vostri primogeniti, va fatto il riscatto, eccetera. La Torah lega moltissime cose all'uscita dall'Egitto. Il Sefer HaChinuch dice, noi diciamo sempre Zecher Yetziat Mitzrayim, perché questa è una delle basi della Yahadut, dell'ebraismo, della nostra fede. Per approfondire un pochino, per capire com'è possibile mettere un evento, anche se è un evento formativo e molto, sicuramente molto importante, quello dell'uscita dall'Egitto, su quasi lo stesso livello della creazione stessa. Non sembra a prima visione che sia che può essere sullo stesso livello. Capiamo che è importante, ma addirittura fino a questo punto. Non solo. Quando HaKadosh Baruch Hu si presentò a noi, quando è che HaKadosh Baruch Hu si presentò a noi? Una volta nella storia. Aiutami. Sul Monte Sinai. Allora, quando qualcuno si presenta, dà un bigliettino da visita, vero? Cosa era il bigliettino da visita che HaKadosh Baruch Hu, con il quale si presentò a noi? Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio. Questo è il nome. Qual è la descrizione? Asher hozeticha me'eretz Mitzrayim, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Che molti commentatori dicono non avrebbe dovuto dire che ho creato il cielo e la terra, che ho creato l'universo. Non sarebbe stato un biglietto da visita un po' più importante, corposo? Non per l'essere umano in realtà, perché l'essere umano è molto emotivo, quindi comunque sia qualcosa che lo riguarda lo cattura maggiormente rispetto a. Ok, però se tu pensi, Beh, non proprio. ok, non è sbagliato. No, sono quello, però la portata della frase che mi è stata detta è più sostanziosa. Sì, ma È come se un padre dice a un figlio: guarda che mi devi dare retta, perché io sono tuo padre, tu esisti grazie a me. Questa è una cosa, potrebbe dire così. Oppure potrebbe dire: guarda che mi devi dare retta perché un giorno quando avevi 12 anni ti stavano menando e io ti ho salvato. Qual è più importante? perché io l'ho Lo creato. vediamo adesso in questa ottica, no? Però è come se lui ricordasse, guarda che voi avete un debito con me perché io vi ho fatto uscire. Anche questo è vero, ma il debito è anche presente se noi approfondiamo sulla creazione, perché se tutto quello che siamo lo dobbiamo a lui, Sicuramente. non è Sei solamente per un debitore in evento, partenza, però io ti sto continuando si a può vedere in ribadire vari che tu modi. mi devi qualcosa. Ok, allora vogliamo un pochino capire che c'è nella Yetziat Mitzrayim qualche cosa che crea una differenza. Prima le cose funzionavano in un modo, con la Yetziat Mitzrayim le cose iniziano a funzionare in un altro modo, e poi alla fine della lezione vedremo anche qualche aspetto pratico che può uscirne fuori da questo discorso per ognuno di noi nella propria vita privata. Allora, torniamo al Seder. Se noi diciamo che tanti aspetti dell'ebraismo sono Zecher Litziat Mitzrayim, in memoria, in qualche modo in ricordo dell'uscita dall'Egitto, molte berachot, molte mitzvot, molti aspetti della vita ebraica nel corso di tutto l'anno, non sono comunque paragonabili alla sera del Seder. La sera del Seder è qualcosa, diciamo, di totalmente dedicato, è proprio la festa dell'uscita dall'Egitto. Non è più solamente un ricordo, un simbolo, un gesto, qualche cosa di simbolico. È proprio la serata chiave per questo discorso qua. Cosa si aggiunge in questa serata, che non c'è tutto l'anno, che ricordiamo ogni giorno diverse volte l'uscita dall'Egitto? Perché serve anche questa serata. La differenza tra la mitzvah di Zecher, del ricordo e del simbolo, eccetera, con quella che si osserva la sera del Seder, torniamo sempre al Sefer HaChinuch, in realtà un maestro che commenta il libro Chinuch, l'opera si chiama Minchat Chinuch, dice: la differenza, una delle differenze, ne vediamo due, una delle differenze tra il ricordo ogni giorno dell'Egitto e il ricordo la sera del Seder è proprio questo, che ogni giorno bisogna ricordare, si crea una memoria, un ricordo. La sera del Seder noi abbiamo un'ulteriore mitzvah, che è quella l'esaper. Cosa vuol dire l'esaper? Raccontare, narrare la storia. Abbiamo l'obbligo di trasmettere la storia. Se tutto l'anno abbiamo l'obbligo di ricordarlo, e lo facciamo in diverse maniere appunto, questa è la sera nella quale ufficialmente si trasmette la storia alla prossima generazione. Che è un'altra cosa. Tutto l'anno lo ricordo. Questa sera è dedicata alla trasmissione. Il racconto è per trasmettere, non è solo per raccontare la storia. Soprattutto per trasmettere, ed è per questo che tutto il Seder è impostato su una struttura domanda e risposta, domanda dai piccoli verso i grandi, per poter coinvolgerli, per poter trasmettere appunto, il punto è di trasmissione, questo è il punto del Seder. Quindi, se per ricapitolare, tutto l'anno devi ricordare per te, al Seder devi trasmettere a qualcun altro. Questo spiega il Minchat Chinuch. Ma c'è anche qualcos'altro che diversi maestri di Halakha sottolineano, in realtà è scritto anche nell'Agada. A parte l'idea di trasmettere a qualcun altro, c'è scritto nell'Agada, ed è citato dai maestri del Talmud, della Mishnah, Bechol dor vador, in ogni generazione e generazione, Chayav Adam, ogni persona è obbligata, Lirot et atzmo, a vedere, a guardare se stessa, che ilu hu yatzam mi Mitzrayim, come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto. Cioè, non solamente raccontare qualche cosa che è accaduto ai nostri antenati, bensì cercare di immedesimarsi nella storia come se noi stessi fossimo stati lì e come se noi stessi fossimo stati redenti. Tutto l'anno noi ricordiamo qualcosa, Zecher! Zecher per definizione vuol dire ricordo di. La sera del Seder non è più solamente Zecher, ricordo di, è un rivivere in qualche maniera. Ricreare la stessa situazione, ricreare l'esodo. Ricreare l'esodo e tutta la struttura del Seder è fatta con questa idea in mente. Tutta la messa in scena, se vogliamo, il fatto di mangiare, come si dice? Perché scomodi? Comodi. Sul divano, gomito. No? Come si dice? A seba. Come si dice in italiano? Sul gomito. Sul gomito? Non, gomiti sul tavolo. Non c'è una parola migliore? No, non è in maniera ignorante, come si dice? Scacciata. Esatto. No, perché scacciata? Allora, facciamo una parentesi. Il concetto di a seba, che letteralmente vuol dire mettersi a lato, appoggiarsi a lato. Da dove viene? Allora, voi conoscete la storia greco-romana? Una volta mangiavano sdraiati. Uomini liberi come mangiavano? Non mangiavano a tavola così su una sedia come stiamo noi. l'uva. Stavano mezzi sdraiati su dei divani. Non solamente l'uva. Bravo, pensa alle immagini, agli affreschi o sculture varie. Ragazzi, ascolta, l'uomo libero in quell'epoca mangiava sdraiato su un divano, ognuno aveva un proprio tavolino che veniva servito, non il piatto, ma il tavolino. Il servo, il cameriere, portava il tavolino con la prima portata, poi la toglieva, portava un altro tavolino con la seconda portata. Questo era il modo in cui, per questo se voi vedete sulla Agadà ci sono delle istruzioni che oggi ci sembrano strane. Si muove il tavolo, si riporta il tavolo. Che c'entra si muove? Che vuol dire? Ti metti a cena e sposti il tavolo? Perché è in questa ottica che era la normalità per persone libere, per persone che non erano schiave. E di conseguenza la struttura del seder si basa su questo concetto, che siamo persone libere e teniamo comportamenti di persone libere, non di persone che sono schiave di altre persone. Molte cose viste su questa ottica qui si spiegano quando noi vediamo le varie simbologie del seder. E quindi il seder vuole dire a noi: comportati da uomo libero, non solamente ricordati che sei stato liberato, ma comportati. Cioè, ricrei la stessa situazione, esci tu dall'Egitto oggi. La domanda è, cosa vuol dire davvero? Cioè, cosa vuol dire sei libero perché sei uscito dall'Egitto? Noi pensiamo di essere liberi perché è venuto Garibaldi, cioè per dire, cosa c'entra adesso l'uscita dall'Egitto? Anzi, se noi vediamo la Agadà, dice cose che possono sembrare strane. La Agadà dice, per esempio, Ilu, tutti conoscono l'Agadà, Ilu lo zi, se HaKadosh Baruch Hu non ci avesse fatto uscire dall'Egitto all'epoca, allora? No, questo è più avanti. Hai ragione, però non ho detto tutta la citazione, è dalla Vadim Ha'inu. Ilu lo zi HaKadosh Baruch Hu et avoteinu mimitzrayim, hareanu ubaneinu ubene banenu, che vuol dire? Se HaKadosh Baruch Hu non avesse fatto uscire i nostri antenati dall'Egitto, allora noi, i nostri figli, i nostri nipoti, ancora saremmo in Egitto. Cioè, come se la Gadda dicesse, il discorso dell'uscita dall'Egitto non è una cosa, come si dice in inglese, one time thing, una cosa che è accaduta una volta e non accade mai più. No, accade ancora. E ancora noi, è come se noi, i nostri figli, i nostri futuri nipoti, ancora stiamo uscendo dall'Egitto. Cosa vuol dire ancora stiamo uscendo dall'Egitto? Un aspetto che si può dire, una delle spiegazioni è che gli ebrei erano molto assimilati in Egitto. E quindi quando la Gadà dice noi ancora saremmo lì, è come dire non ci sarebbe stato chi portar fuori dall'Egitto. Se HaKadosh Baruch Hu non avesse fatto questo miracolo dell'Esodo, allora non sarebbe rimasto nessuno, perché già eravamo molto assimilati alla cultura egiziana, alla società egiziana. E quindi saremmo stati ancora lì, nel senso, loro erano i nostri antenati, noi saremmo rimasti lì e non ci saremmo oggi così come siamo oggi, così come siamo adesso. Ma non è che festeggiamo ogni cosa, che se non fosse per quella cosa non saremmo qui. Cioè, se Yaakov Avinu non fosse nato, noi non saremmo qui. Ok, allora festeggiamo la nascita di Yaakov Avinu. Ho tante altre cose che sono accadute, che erano importantissime per la nostra formazione come popolo. Non usiamo questi stessi termini, che invece usiamo riguardo alla Yetziat Mitzrayim. Posso fare una domanda? Sì. Ma proprio riguardo al concetto che hai espresso prima, qual era concretamente la differenza fra gli ebrei e gli egiziani all'epoca? Oh. Che cosa contraddistingue un ebreo da un non ebreo? Questo è, veramente ne volevo parlare un pochino. Va bene, a tempo. Un pochino più avanti, torneremo a questo, sì. Quello che vogliamo arrivare a capire, appunto, è quanto è forte l'effetto della Yetziat Mitzrayim, che ancora oggi possiamo dire, se non fosse per quello, noi non saremmo quello che siamo oggi. Allora, voi sapete chi è il Dalai Lama, giusto? Sai chi è il Dalai Lama? Allora, il Dalai Lama diversi anni fa, qualche decennio fa, non so, una ventina d'anni fa, ha invitato nel suo luogo di esilio, perché loro stanno in esilio dalla Cina, no? Non li fanno entrare. Ha invitato un gruppo di rabbini americani, perché c'era un periodo che era affascinato da tutto il mondo ebraico, perché diciamo, vedeva la sua storia nella storia ebraica, no? Tutto il discorso dell'esodo, dell'esilio, non l'esodo, l'esilio, la diaspora, eccetera. Lui invitò questi rabbini e chiese loro qual è il segreto del popolo ebraico, della sopravvivenza del popolo ebraico, nonostante circa 2000 anni di totale esilio, di mancanza di organizzazione, di governo, di territorio, di nazionalità. Come siete riusciti a sopravvivere tutto ciò? Aveva molta difficoltà a capirlo, perché in realtà non ha molto senso, se ci pensiamo. Ed è difficile dare una spiegazione schematica a livello logico-razionale. La cosa che rende questa domanda ancora più dura, ancora più forte, è il fatto che è difficile trovare un precedente. Sembra che forse non c'è un precedente a una storia così o un parallelo. Nel 1927, quello che era all'epoca il Rebbe di Lubavitch, il Rebbe Yosef Yitzchak, che era il suocero del Rebbe, lui era stato arrestato dal governo comunista perché per le sue opere pro-ebraismo, che era contro la legge in quell'epoca, in quel luogo, era arrestato anche con una pena molto forte, eccetera, però poi l'hanno alleviata. E hanno detto al posto di questa, prima c'era la pena di morte, poi l'hanno cambiato in una pena. Poi hanno detto esilio in un luogo lontano e l'hanno mandato in questo luogo. Allora praticamente all'epoca si chiamava Leningrado, che sarebbe Santo Pietroburgo, l'hanno rinominato così di nuovo, e da lì partiva il treno e andava in questo luogo lontano, in questo luogo d'esilio. Nonostante non fosse una cosa sicura da fare, a livello di sicurezza della persona, in quell'epoca moltissime persone, moltissimi ebrei, moltissimi Hasidim sono accorsi alla stazione per dare quello che pensavano sarebbe stato l'ultimo saluto al grande Rebbe. E lui dal treno o dal binario iniziò a fare un discorso e disse loro, tra le altre cose che disse, ma la cosa chiave che disse era: tutti i popoli sulla faccia della terra devono sapere che per ciò che riguarda noi ebrei, solamente il nostro corpo fisico, materiale, è stato sottomesso all'esilio, al galut, agli altri popoli, ma la nostra neshama, la nostra anima, non è mai stata esiliata e non è mai stata sottomessa ad altri poteri. E quindi noi dobbiamo annunciare, disse, che per ciò che riguarda il nostro ebraismo, la nostra osservanza, il nostro legame con l'ebraismo, la Torah, le mitzvot, le usanze, i minagim, tutto ciò che riguarda il nostro ebraismo, nessuno può forzarci pensare o comportarci in una determinata maniera, e non c'è nulla al mondo che ha questo potere. Forse il corpo può essere incatenato, ma l'anima no. Questo disse. Ha detto che la neshama, l'anima dell'ebreo, non è possibile schiavizzarla, se vogliamo dire così. Forse è possibile a livello materiale sul corpo, ma non a livello spirituale, non a livello della Neshama. Il miracolo che è accaduto nel momento della Yetziat Mitzrayim, dell'esodo dall'Egitto, è stato questo: il cambiamento dello status della persona, dell'Am Yisrael, di ogni persona di Am Yisrael, dallo status di Eved cioè schiavo, eravamo schiavi. Avadim Hayinu, eravamo schiavi. È molto importante questo brano dell'Agadà proprio perché sottolinea questo concetto. Avadim Hayinu, schiavi eravamo in passato. Dal momento che è successo, è accaduto, Akadosh Baruch Hu ha fatto che sì, che accadesse la Yetziat Mitzrayim, cioè l'esodo, da quel momento in poi siamo stati trasformati da schiavi in uomini liberi. Benei Chorin, stessa parola che si dice nell'Avadim Hayinu. Ed è la prima volta che si parla di popolo. Ed è quindi la prima volta, bravo, che si forma Am Israel, perché è un Am, un popolo indipendente. Non dipendente da qualcun altro, di qualcun altro. È paradossale però che il carattere nazionale, il carattere nazionale che si è creato Israele, si è creato fuori da Israele. Cioè nel senso l'idea di far nascere... Bravissimo, però non è paradossale, anzi questo ti fa capire... Quello che il Dalai Lama non capiva, che Am Israel è Am Israel e non è sottomesso a nessuno, non perché dipende da un certo luogo, perché di proprio è libero. È proprio per questo che Am Israel può essere Am Israel anche quando non si trova in Eretz Israele, anche quando qualcuno crede di sottometterlo. Proprio questa è l'idea che il Rebbe Yosef Yitzchak voleva trasmettere. Am Israel è libero per definizione. Questo lo dice in realtà il Maharal di Praga, grande maestro del 600, che scrive, e molti vanno a visitare la sua tomba quando fanno turismo a Praga, siete stati? Lui scrive in una delle sue opere molto importanti, che si chiama Gevurot Hashem, scrive, molti chiedono per quale a che cosa è servita l'uscita dall'Egitto. Tanto siamo rientrati in altri Egitti, no? In altri esili. Dice, questa è una domanda folle, scrive lui, perché l'uscita dall'Egitto non era meramente l'uscita da una schiavitù fisica e materiale, una liberazione a livello mondano. Una prigione dell'anima. Esattamente. Era il momento in cui si è ridefinita l'identità di queste persone, ed è diventata un'identità libera. Libera vuol dire tu sei quello che sei perché lo sei, non perché lo definisce qualcun altro. E questa è una cosa che nessuno può togliere. Io invece direi il contrario. Cioè? Questa parte di Israele, ad esempio, ecco, Israele è Israele perché non è più quello che era prima. Cioè, Israele diventa Israele perché non è più uno schiavo d'Egitto. Sì. Cioè, e no, hanno bisogno di un confronto, nel senso, senza il confronto col passato non riescono a riconoscersi. Perché questo è il contrario? Cioè, qual è la contraddizione? Tu che cosa hai detto? Non ho capito male io. Cosa hai capito? Tu non dicevi che c'era una... Lui lo vede in senso negativo, diciamo. Diventi popolo perché sei uscito dall'Egitto, esatto. E non... Ho detto questo. Okay. Proprio il distacco, no? Non so se... Ci siamo capiti. Il distacco da quello che era prima, in cosa si definisce questo distacco? Prima tu sei definito da qualcun altro. È il faraone che dice, questo chi è un mio schiavo. E quella è la tua identità. Chi l'ha definita? Non te. Qui ti distacchi da quello e sei tu che definisci la tua identità. Ma siamo fortunati che no, non sei tu. È HaKadosh Baruch Hu che definisce la nostra identità. Questo è Am Israel e di conseguenza non c'è nessun altro che può imporre un'identità diversa su di noi. Se posso, questa sì? cosa viene vista anche in un'accezione tra virgolette negativa, se vediamo la parte dell'antisemitismo e dell'anti-sionismo. Dal momento in cui, per esempio, si ragiona con la mentalità tra virgolette nazista, non c'erano più italiani ebrei, non c'erano più spagnoli ebrei, sì. Ma c'erano soltanto ebrei. Okay. Quindi c'era una classificazione a parte, al Benissimo. Di là dello Stato, cioè non c'era una classificazione in base allo Stato. Sì, c'era sì. Una classificazione... cioè hanno capito che questi sono ebrei, al di là della nazionalità. Esatto. Sì. E io non ho capito se si intende con l'uscita degli ebrei dall'Egitto, un processo di trasformazione o di ritorno all'identità? Ok, forse possiamo dire che ci sono entrambi gli aspetti. Vediamo un attimino, voglio fare un esempio di qualcuno che anche sotto condizioni che adesso sentirete non ha perso questa libertà, anche in una situazione di cosiddetta schiavitù. È un racconto lungo, però ve lo faccio molto breve. La vigilia di Pesach del 1944 nel campo di Bergen-Belsen, campo di concentramento, c'era lì tra le molte persone internate un si chiamava Rabbi Israel Shapira, ed era il rebbe di Blojev, di una città in Polonia. Lui è andato dal comandante, è andato presso il comandante di Bergen-Belsen e gli ha detto: vorrei fare delle mazzot, dei pane azimo per la festa, e era con un gruppo di persone. Noi siamo tutti pronti a rinunciare alla nostra razione di pane per i prossimi 8 giorni se lei ci dà la possibilità di fare questa cosa. Tutti erano sorpresi che lui ha dato il suo consenso. E allora con qualche pietra hanno creato un forno, non si sa dove hanno trovato farina, magari già da mesi prima, sicuramente stavano preparando, eccetera, e hanno iniziato a cuocere queste mazzotte. Durante la cottura, mentre preparavano, lo stesso comandante appare in questa baracca in cui stavano preparando e in un momento di rabbia, distrugge il forno, rovina tutto quello che avevano preparato, eccetera, fa proprio una strage. Inizia anche a frustare le persone con una frusta che usava. Poi quando vede il rebbe di Blojev, proprio versa tutta la sua ira fisicamente su di lui, proprio botte, che quasi non ha sopravvissuto quell'episodio. La sera successiva, che era la sera del Seder, quei poveri ebrei sono riuniti intorno in questa baracca e hanno detto: beh, almeno ricordiamo il Seder in qualche maniera. Da tutta quella cosa delle mazzot che avevano preparato e avevano fatto, era sopravvissuta, tra virgolette, era rimasta una piccola misura, un piccolo pezzettino di una mazzà. Si era salvato da tutto quello. Solo quello c'era. Hanno iniziato a parlare a chi spetta questa, neanche mazzà si può chiamare, questa briciola, diciamo così, questo pezzettino di mazzà. A chi dovrebbe spettare? In generale sono arrivati quasi al consenso che, siccome il rebbe di Blojev si era impegnato, è andato dal comandante, non ha avuto paura, eccetera, poi anche per la sua figura, diamola a lui che lui lo mangia per tutti noi, che ricorda per tutti noi cosa vuol dire mangiare matzah la sera del Seder. Era più che altro un simbolo, perché non è che si rientrava nella mitzah davvero, però volevano fare almeno quello. Alla fine della baracca si alza una signora e dice: scusi, vorrei dire qualcosa. Cosa vuol dire? Era una vedova, il cognome era Koschetsky. Cioè, secondo me c'è qualcuno di più importante rispetto al re, con tutto rispetto per il Rav, c'è qualcuno di più importante. Mio figlio piccolo, non so neanche se aveva un anno, però dice: questo rappresenta la prossima generazione. E dovrà essere lui quello che mangia la mazzà, perché lui possa poi trasmettere alle prossime ancora generazioni il messaggio della libertà di Pesach. In quel momento nessuno poteva dire di no a una proposta di questo tipo, così sentita e così sensata, anche se incredibilmente strana sotto le condizioni, chiaramente. Dopo la guerra, le persone che sono sopravvissute si trovavano insieme in un campo di campi DP, si chiamavano campi di displaced person, cioè persone che non hanno dove andare, no? Profughi, C'erano questi, eh? Campo profughi, benissimo. arriva a questa signora un messaggio che c'è qualcuno che è vedovo, lei era vedova per la guerra, che vorrebbe conoscerla e forse sposarla. Arriva all'incontro, chi era questo vedovo? Il Rebbe di Blojev. E lui ha detto: se penso a portare avanti tutto ciò che è stato distrutto per un'altra generazione, non posso pensare a qualcuno migliore con cui condividere questo percorso che una donna che ha avuto un pensiero di questo tipo sull'educazione, sulla trasmissione alle prossime generazioni, anche sotto quelle condizioni che magari nessuno ci avrebbe neanche pensato. Allora, durante l'uscita, tornando all'uscita dall'Egitto, quello che è veramente accaduto nella Yetziat Mitzrayim è il fatto che da quel momento in poi non c'è più la possibilità che ci sia un esilio simile a quello che è stato in Egitto. Cioè dove davvero siamo stati in qualche maniera privati della nostra propria identità, se possiamo dire, indipendente. Perché uscendo dall'Egitto, venendo sotto il monte Sinai e sottomettendoci, si fanno proprio nei Midrashim le contrapposizioni, invece di Avdei Parò, schiavi del faraone, Avdei Hashem, servi del Signore, servi di Akadosh Baruch Hu. Abbiamo quindi con la Yetziat Mitzrayim ci dà la possibilità di unire due estremi. Da una parte abbiamo la possibilità di essere liberi, dall'altra qualcuno potrebbe credere che siamo schiavi o siamo sottomessi a qualcosa, ma dentro di noi al tempo stesso sappiamo che abbiamo quello che siamo noi, che nessuno potrà mai toglierci. Quindi questo può essere valido per un discorso di qualcosa di esterno a noi, qualcuno che vuole fare a noi qualcosa, qualcuno, un nemico, un'avversità che potremmo incontrare. Ma il problema non è solamente questo. Il problema esiste anche all'interno di noi stessi. Non sto dicendo all'interno del popolo ebraico, all'interno di ogni persona c'è avversità. Una persona deve, come abbiamo spesso parlato nelle lezioni, una persona prima di lottare con tutto il mondo deve lottare anche con se stesso, con se stessa. La persona deve lottare con tanti tipi di problemi, la persona deve lottare con i propri pensieri, la persona deve lottare con la propria autostima, con magari tristezza, depressione, tentazioni di tipo vario, eccetera, eccetera. Sono tantissime cose che la persona deve fare per far liberare un po' l'anima che sta dentro di sé. Noi ci liberiamo da queste situazioni rivivendo Yetziat Mitzrayim, rivivendo nuovamente quello che è accaduto in quel momento. Cosa è successo? E qui torno a quello che hai detto tu. Il Midrash dice una cosa, c'è un Midrash che dice una cosa molto interessante sulla parola Anochi. La parola Anochi è la prima parola del Aseret HaDibrot, di Yitro. Io sono Anochi, però Anochi normalmente spesso si usa la parola più spesso Ani. Invece qui non è l'unica volta, è una delle volte che si usa Anochi. Il Midrash Tanhuma dice: la parola Anochi è in lingua egizia. Così dice il Midrash. Una parola che non è... Ani e Anochi sono sinonimi? Sì, sono sinonimi. Si potrebbe usare anche Ani. Invece usa Anochi perché? Perché usa una parola che è egizia nella Torah? Cioè per insegnare a noi che il popolo ebraico in quel momento non parlava l'ebraico, parlava l'egiziano. E a Kadosh Baruch Hu, il Midrash vuole trasmettere l'idea che a Kadosh Baruch Hu si rivolge a questo popolo in una lingua che capiscono. Quindi l'idea che abbiamo del popolo ebraico simile a quello che conosciamo oggi come popolo ebraico, o tutte persone religiose attaccate, tutti lì davanti al monte a sentire a Kadosh Baruch Hu, non è esattamente l'idea che i Midrashim ci trasmettono. Invece è un gruppo dove ci sono tanti tipi di elementi, uno non necessariamente legato all'altro, è un gruppo che è appunto molto assimilato in tutti i sensi, fino al punto che uno dei Midrashim dice che Moshe Rabbeinu si è rivolto ad HaKadosh Baruch Hu prima dell'Esodo, quando HaKadosh Baruch Hu gli diceva vai in Egitto a rendere i redenti, a parlare col faraone. Lui diceva scusa, questi qua sono idolatri, eppure questi qua sono idolatri. Cioè gli egizi fanno idolatria, pure gli ebrei che stanno in Egitto fanno idolatria. Che differenza c'è tra questi e questi? Perché questi hanno questa cosa che devono uscire e diventare qualcos'altro e quelli no? Questo per farci capire fino a che punto addirittura erano una parte della società nei loro comportamenti, non parliamo adesso della schiavitù, ma nel modo di vita, nel loro comportamento, c'erano dei momenti in cui magari uno erano imprescindibili dalla società generale. Ma c'erano degli ebrei che non erano schiavi? Sì. La tribù di Levi non era sottomessa alla schiavitù. Cioè il governo egiziano riconosceva che ogni gruppo etnico ha una parte del gruppo che si dedica o al culto, o all'insegnamento, o la trasmissione delle proprie idee, eccetera. E questo era rappresentato dalla tribù di Levi, dal quale poi escono poi i Coanim, Levim, eccetera, e che non erano sottomessi alla schiavitù. Infatti lo vedi quando leggi tutta la storia che la Torah narra delle piaghe, dell'avanti e indietro del faraone con Mosè e Aaron che vanno da... Allora Shin a un certo punto dice, vedi che Mosè e Aaron escono, vanno, vengono, cioè la schiavitù dove stava? Non erano nella schiavitù. Erano esenti dalla schiavitù. Infatti c'è anche un'allusione in una delle volte che il faraone dice andate a fare le vostre cose, non dice tornate al vostro lavoro. Cioè voi siete liberi, cosa volete? Fate quello che vi pare, lasciatemi in pace. Allora perché, in effetti, tornando alla domanda che abbiamo fatto in origine, per quale motivo la Torah apre i 10 comandamenti, la serietà di Brot, non con io sono il creatore di tutto e alimento ancora tutt'oggi tutta la creazione, la ricreo in ogni momento, se non fosse per questo non ci sarebbe nulla? No. Parliamo della Yetziat Mitzrayim. In un certo senso la Yetziat Mitzrayim è un miracolo più grande ancora della creazione. Perché? La creazione è come dire a Kadosh Baruch Hu può dal nulla creare qualcosa. Così noi definiamo la creazione nel termine specifico che si usa, Beriah, creazione, Bereshit Bara, Beriah, vuol dire creazione. Yesh, un qualcosa, Yesh, c'è, qualcosa che esiste, un'esistenza. Me'ain, da nulla cioè prima non c'è, ora c'è. Questa è la definizione ebraicamente parlando di cosa vuol dire creazione. Non formazione di qualcosa di esistente in una nuova forma, ma creazione ex nihilo in latino, cioè dal nulla. Questa è creazione. L'uscita dall'Egitto rappresenta qualcos'altro. Rappresenta trasformazione. E cioè qualcosa che già esiste, e quindi già ha una propria impostazione in teoria, impostata in una determinata maniera. Ora, attraverso questo miracolo, cosa succede? Si cambia la realtà, trasformazione di una realtà già esistente. E noi questo ci riguarda più della creazione, per ciò che riguarda il nostro comportamento, perché è un messaggio a noi. Se loro potevano trasformarsi, allora noi sicuramente possiamo trasformare noi stessi. E questo diventa realmente la storia della Yetziat Mitzrayim. E questo diventa realmente la storia del Seder. L'uscire dal proprio Egitto, cioè il cambiare i propri comportamenti, è più difficile dal semplicemente nascere. Se vogliamo paragonare il nascere alla creazione e il migliorarsi all'esodo dall'Egitto, è chiaro che è più difficile cambiarsi che nascere. Per nascere non devi fare niente. Per cambiare te stesso devi faticare, devi lavorare duro. Vuoi dire qualcosa? Sì. Fortissima. Forse fa parte del messaggio. Vuol dire, è come se la Torah ci dicesse: tu devi cercare di trasformare te stesso. Non credere che è una cosa né facile, né automatica, né irrevocabile. Vuol dire, è un percorso. Può darsi che credi di essersi trasformata e ti trasformi davvero e poi ricadi nel problema. Cosa ci sta dicendo la Torah? Dopo il vitello d'oro è finito tutto? No. No, eccoci qua. Vuol dire, fa parte del messaggio. Il problema della ricaduta fa parte della condizione umana. Questo tema l'abbiamo anche affrontato con l'università dell'ultimo Rav. Sì. In cui ovviamente lo sfondo era diverso, però ha fatto riferimento al fatto che lui da giovane era un ragazzo che era iracondo. Ah, sì, sì, me l'avevi detto, sì. Sì, molto interessante. La mitzvah modificare il proprio... Sì, è tutto questo, tutto si basa su questo. No, io volevo sottolineare il fatto che loro sono stati messi in condizioni ottimali per la trasformazione. Certamente, però sono anche riusciti a fare il contrario, se volevano. Ah, perché era ancora un po' l'acerbo. No. Era appena nato. Sì? Quindi, no, è vero, però l'errore da appena nato ci sta. No, è vero, però poi... è facile trasformarsi dopo che io ti faccio vedere che uccido tutti i primogeniti d'Egitto, che faccio determinate vogliamo cose, approfondire, vogliamo approfondire. Sì, è vero, è facile, ma non è duraturo. Cioè io mi sto trasformando con certezze, cioè io non mi sto fidando e basta di Dio. Infatti, però nel deserto aspetta, altre certezze. Senti quello che ti sto dicendo. Tu stai dicendo che alla luce e alla visione di tutto ciò che hanno visto, esatto, sarebbe impossibile non cambiarsi, vero? È vero, però questo è quasi come se fosse impostato, perché quello accade all'esterno di te, ti fa perdere tutti i parametri, dici, davanti a questo non posso non cambiarmi. Ma, visto che non viene dal tuo interno, viene da qualcosa che ti è stato fatto, tu sei passivo, non sei attivo. Esatto. Dal momento che sei passivo, cosa succede? Non è duraturo. Ecco che arriva il vitello d'oro. E dopo inizia il percorso che deve essere attivo. Ecco perché c'è il seder. Lo devi fare te. Tu, in un certo senso, la ricreazione di quello che è accaduto, in un certo senso, tra virgolette, è più importante dell'evento originale. Perché l'evento originale sei stato passivo, ti è stato fatto. Cioè, qui sei tu che lo devi è fare. È la riconoscenza del... Cioè, io riconosco effettivamente tutto quello che è... Lo riconosci, ma lo devi ricostruire dentro di te. Ci devi arrivare, devi approfondire, devi apprezzare, devi cercare di capire. Nessuno te lo regala. Lì è stato un regalo. Ok? Lì era come se Akadosh Baruch Hu facesse la corte a noi. Noi eravamo la sposa, no? La famosa metafora. Akadosh Baruch Hu ci ha portato i fiori, ci ha dato i gioielli, ci ha fatto tutti i regali del mondo. Chi è che dice di no? È impossibile dire no, sei un folle. Ok, però poi inizia la vita reale. La vita reale non è fatta tutta di fiori, di gioielli, di regali. La vita reale è fatta di persone, di legami profondi, veri, che vanno costruiti mattone su mattone, e quello è il seder, ma di fatto, è la vita ebraica. Dopo che gli ebrei sono usciti dall'Egitto e hanno, diciamo, in parte subito, in parte affrontato il primo step della trasformazione, Dio, una volta aver dimostrato la sua forza, potenza e benevolenza nel caso delle piaghe e tutto quanto, sì. Difatti dopo non ha abbandonato, cioè non è sparito ed è ritornato, ha continuato a guidare il popolo ebraico, sì, ma non in quella maniera, sì, fino a un certo punto, poi sempre di meno, però, no? Cioè, poi sempre c'è meno. Nella storia sempre la manifestazione si diminuisce finché non c'è più la profezia, eccetera eccetera. Possiamo vedere questa cosa in due maniere. Possiamo vederlo come una punizione, non ce lo meritiamo più. Oppure anche come il fatto che siamo arrivati al... Okay, non ne oppure bisogno. È un complimento. Ora sei grande, non hai bisogno della mia mano per camminare. Cammina da solo. È un'offesa o è un complimento? Dipende come lo vedi. Ma secondo me è più il primo. È più un'offesa? È una punizione che è un livello di autonomia. Dipende da te come lo vuoi vedere. Ti racconto una storia. Un'altra. Brevissima. E poi concludiamo. C'era una persona che alla nascita è nato fuori dal contesto matrimoniale e i genitori non lo volevano, la madre non lo voleva. L'ha dato via in adozione. L'avete già sentita questa storia? No, ho fatto una battuta a stile Luca. Ah, non so che se è la stessa. L'hanno dato ai servizi sociali, trovate una famiglia. Hanno trovato una famiglia e l'hanno adottato. Lui non sapeva, era un neonato e non gli avevano detto per quale motivo dirglielo, eccetera. È cresciuto, era un bambino. Giocava un giorno con i bambini del quartiere, 10, 11, 12 anni. Certo momento una litigata classica con gli altri ragazzi. E un bambino glielo dice. E uno gli dice, ma guarda che te, eccetera, eccetera. Quelli non sono i tuoi genitori. Mm-hmm. Devastato. Devastazione totale. Ma non perché non lo sapeva, lo sapeva. Proprio per il sentimento di non essere stato voluto, di essere stato buttato via. Immagina che sentimento può essere questo. Anzi, nessuno lo dovrebbe mai immaginare. I genitori adottivi però erano molto intelligenti e quando si è calmata la situazione l'hanno preso da parte, da una parte, da un lato e ci sono messi a parlare. E gli hanno detto in pratica questo. Gli hanno detto, tu sei stato scelto da noi. Ha girato il problema. Tu sei stato scelto da noi. Noi ti abbiamo voluto. Più di quanto forse un genitore biologico può volere un figlio, perché ti siamo andati proprio a cercare, a scegliere. Però abbiamo non... voluto te. Aspetta, concludo la storia. Sai chi era questa persona? Steve Jobs. È la sua storia. Lui era il bambino che era stato adottato. E lui ha raccontato la storia e ha detto, queste parole che mi sono state dette dai miei genitori adottivi, noi abbiamo scelto te, mi hanno cambiato la vita. Perché c'è una storia in cui non è stato voluto, c'è un'altra storia in cui è stato voluto. Qual è quella vera? Sai qual è quella vera? Quella che tu scegli. Che sono entrambe vere, ma non ha importanza qual è quella storicamente autentica, ha importanza qual è quella che tu scegli. Quella che tu scegli è quella che ti segna. Allora per questo dico... Certo che è vero anche l'altro lato. La domanda è, qual è il lato che parla a te? Qual è il lato che parla a te? Quello che tu scegli che può parlare a te. Se gli uomini sono stati creati da Dio, se vengono dalle scimmie, qual è l'importanza dell'autenticità? Non c'è. L'importanza è qual è la tua scelta, qual è la storia che ti segna. Ti vedi come un essere che può avvicinarsi al divino o ti vedi come un essere che semplicemente fa parte di una macchina che va avanti da sola? Dipende, sul questo si esprime poi nel tuo comportamento. Ora, come effettivamente, per concludere, un lato pratico, che si parla spesso in termini molto troppo, secondo me, astratti. Quando si dice bisogna fare di più, bisogna essere persone migliori. Vuol dire bisogna essere persone migliori? Non vuol dire niente. Arriva l'anno nuovo 2018, faccio una nuova risoluzione, sarò una persona migliore. Che vuol dire sarò una persona migliore? È troppo astratto. Allora, tre consigli forse. La prima cosa, se decido che fino adesso mi mancava una determinata cosa nel mio comportamento, una qualità, un comportamento specifico, una mitzvah, qualcosa che sia, e decido di farlo, non dire d'ora in poi farò sempre così. Spero che lo farai sempre così, però non dire questo. Di per un determinato tempo, definito per 3 mesi, per 60 giorni, quello che è, per 2 settimane farò questo. Definiscilo, perché quando lo definisci diventa più pratico, diventa più fattibile. Se poi vai avanti, probabilmente andrai pure avanti, certo che è chiaro, è meglio, ma questo ti aiuterà a portare avanti, definirlo dall'inizio, con una tempistica specifica. Questa è una cosa. Seconda cosa, che sia questo nuovo comportamento, che sia qualcosa di pratico, un atto, non un pensiero, non un sentimento o un credo, un qualcosa di astratto. Qualcosa che sia un atto pratico, perché sappiate che noi esseri umani, c'è scritto nel Tanya, libro importantissimo di filosofia ebraica, mistica, che la persona ha la possibilità di controllare, quindi di dominare, il proprio pensiero, la propria parola e le proprie azioni. Non necessariamente abbiamo la possibilità di trasformare qualcosa di più interno ancora, cioè proprio trasformare il cuore, la mente, il carattere. La Torah non chiede questo da noi, la Torah chiede in queste tre sfere, che sono considerate più esterne rispetto all'anima. Pensiero, parola e azione, quindi che sia una cosa pratica. E la terza cosa, che sia una cosa fissa. Una cosa che ha una cadenza fissa nel tempo. Ciclica. Come per, che sia ciclica, come se per esempio si decide di studiare Torah, come grazie a Dio qui abbiamo fatto, ogni settimana. Facciamo lezione, quando vediamo di volta in volta, no? Si fissa. Quando si fissa nel tempo, si fissa anche nell'anima. Allora questi sono tre aspetti pratici che ci aiutano a fare cosa? Ci aiutano a liberare noi stessi da noi stessi. E questa è la vera Yetziat Mitzrayim. La vera libertà non è la libertà dalle catene, perché uno potrebbe essere incatenato fisicamente, come abbiamo parlato prima, ma essere libero di spirito. La vera libertà è quella di liberare lo spirito che è dentro di noi. E a volte ci sono dei cosiddetti limiti, delle definizioni, dei delineamenti, se vogliamo, che sono volti ad aiutarci a in qualche maniera liberare un altro aspetto del nostro essere. Quello che intendo dire, per esempio, se tu giochi a calcio, se non hai mai giocato a calcio, ti senti molto limitato perché non puoi usare le mani. Magari non ci avete neanche pensato perché siete cresciuti giocando a calcio. Però se viene un americano che gioca a baseball e si mette a giocare a calcio, tutto il tempo si dovrà legare le mani le prime volte per abituarsi, perché è una restrizione fortissima. Ma quando doma questo istinto, cosa succede? Si libera nelle gambe, cioè dà spunto a un altro aspetto che non, magari non riconosceva di avere questa facoltà, questa possibilità, eccetera. Allora la Torah cosa ti dice? Limitati in questo, esprimiti in quello, ti in qualche maniera ti aiuta ad incanalizzare, ti inquadra. No? E ti inquadra, incanalizzare le tue energie, le tue forze in una maniera che in un certo senso puoi uscire fuori dai tuoi stessi limiti, che possono essere imposti dalla società, che possono essere autoimposti, che possono essere imposti dal proprio carattere, eccetera, eccetera. Queste cose fatte in maniera fissa, fatte in maniera ciclica, fatte in maniera più definita, ci aiutano a fare che cosa? Hayom Yetziat Mitzrayim. Bechol dor vador, in ogni momento ognuno di noi è tenuto a di nuovo rivivere l'uscita dall'Egitto, in un certo senso, come dicevamo, ancora di più di quanto l'hanno vissuto loro, che in qualche maniera gli è stato imposto, noi lo facciamo per scelta. E questo è il vero senso, questa è la vera motivazione del Seder. Ogni giorno dell'anno noi ricordiamo la Yetziat Mitzrayim. La sera del Seder è il capostipite dell'anno per vivere la Yetziat Mitzrayim.